Intesa San Paolo, Official Global Banking Partner di Expo Milano 2015. Vi presenta... America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York. Mario Platero, vorrei cominciare con oggi con qualche notizia, ma subito dopo col primo approfondimento su quei temi forti del momento di cui vi parlavo ieri. Oggi in particolare vorrei concentrarmi su economia e mercati. Ma partiamo dalle notizie. Obama in Alaska per promuovere la sua agenda ambientale, anche in previsione del vertice di Parigi di dicembre, il grande vertice sull'ambiente. Ebbene, cosa ha annunciato? Ha annunciato che cambierà il nome di una montagna, la più importante montagna dell'Alaska, la montagna William McKinley. Chi era McKinley? Un grande presidente americano dal 1897 al 1901, un presidente che oltretutto fu purtroppo assassinato. Ecco, perché cambia il nome alla montagna? Perché il nome originario, cioè il nome che era stato dato a questa montagna dalla popolazione locale, era Denali. Denali vuol dire il punto più alto. E gli americani lo hanno poi cambiato quando sono entrati in possesso dell'Alaska. Obama aveva promesso di riparare alcuni dei danni culturali, morali, che erano venuti con l'arrivo degli americani, e dunque ha sancito il cambiamento del nome. La politically correctness continua a prevalere, che non è quello che cavalca invece Donald Trump. Ecco, la crisi estiva è una crisi che è partita dalla Cina. Beh, prima abbiamo avuto turbulenze con la Grecia, naturalmente, ma è stata la Cina che ha dato lo scossone finale. Cina e poi tassi di interesse. Cosa farà la Federal Reserve nelle riunioni di settembre, nella metà di settembre? Aumenterà finalmente i tassi o no? Beh, ieri il Dow Jones ha perso 114 punti, lo 0,7%, e a quota 16.528, e una delle ragioni resta quella legata all'incertezza sull'aumento dei tassi di interesse. E io credo che questa incertezza dovrebbe essere superata, e vorrei fare un paio di osservazioni. La prima, chi continuava a proclamare intanto il declino americano rispetto alla Cina, nei giorni scorsi, in questi giorni, devo dire, si sarà ricreduto, perché quando ci siamo trovati nella crisi di mezz'estate il segnale di leadership per la stabilità è venuto proprio dagli USA. Ecco, secondo me oggi la sfida per Washington è la sfida di dare continuità a questa leadership, e deve dare continuità soprattutto pensando alla politica monetaria. Devo dire, la crisi non sarà archiviata rapidamente per via di una tenaglia finanziaria da una parte, economica dall'altra, la cui morsa, secondo me, non si è ancora esaurita. Dunque molti dicono, per questo bisogna essere prudenti, per questo non si devono aumentare i tassi. Ecco, io dico esattamente il contrario, e cioè che la leadership americana dovrebbe affermarsi scegliendo di aumentare i tassi al più presto, e cioè già nelle riunioni di settembre. Oggi è solo una minoranza che pensa che la Fed deciderà in quella direzione. Io credo che sia arrivato il momento di muoversi, perché razionalmente su questo sono tutti d'accordo. Come vi dicevo, c'è un tasso di crescita del 3,7% per il secondo trimestre, un tasso di disoccupazione al 5,3%, 13 milioni di nuovi occupati negli ultimi 5 anni. Insomma, bisogna rientrare in un contesto di normalità. La Fed continua a parlarne da tempo, e poi, nonostante abbia dato varie indicazioni temporali possibili, poi alla fine non ha fatto niente. Ma la verità è che il tasso interbancario non può restare vicino allo zero all'infinito. So I'm afraid that what goes on is some of it is learning what works and what doesn't, some of it is relearning what works and what doesn't, and you're quite hard put to figure out when they've learned things and when they've unlearned things. Ecco, il dibattito è serrato. Avete sentito Stanley Fischer, numero 2 della Fed, ha parlato a Jackson Hole, dove nel fine settimana ci sono state riunioni importanti dei banchieri centrali. Sono venuti i banchieri centrali di mezzo mondo, parlavano soprattutto di inflazione, ma alla fine è venuto anche un messaggio sui tassi di interesse. Stanley Fischer ha chiarito che non vi è alcuna decisione sui tassi. William Dudley, presidente della Fed di New York mercoledì scorso aveva detto di essere contrario a un aumento dei tassi in questa situazione di incertezza nella seduta del 16-17 settembre del Comitato Monetario. E poi James Bullard, invece presidente della Fed di St. Louis, ha detto qualche giorno fa esattamente il contrario, cioè che le condizioni economiche americane giustificano un aumento dei tassi di interesse al più presto. Ecco, troppa confusione secondo me, e in questo momento invece ci vuole chiarezza e ripeto ci vuole leadership, ci vuole il coraggio di prendere una decisione annunciata, anche perché questi aumenti saranno ovviamente molto contenuti, di appena 25 punti, vuol dire che se anche la Fed dovesse decidere di fare 25 punti base di aumento da settembre al settembre successivo, gli aumenti saranno di 25 punti in 25 punti molto contenuti, si arriverà a un tasso dell'1,25, dell'1,50%, potrebbero anche esserci delle pause nel frattempo. Dunque io credo che anche se ci sarà una reazione negativa dei mercati nel breve termine, questa decisione andrebbe presa. E devo dire che però la razionalità, anche come abbiamo visto dalle recenti reazioni dei mercati, non appartiene alle dinamiche decisionali del nostro tempo, e ci sono in effetti degli elementi che preoccupano la Fed, impegnata a evitare che un passaggio atteso, quello sui tassi, si traduca poi in una spirale negativa. Ecco, una delle incognite riguarda naturalmente la Cina. La Cina ha un'economia che è in passaggio verso un atterraggio, cerca l'atterraggio morbido su un tasso di crescita più contenuto rispetto a quello a cui noi siamo stati abituati, e questa onda lunga della crisi economica cinese ha già avuto dei contraccolpi macroeconomici oltre che finanziari naturalmente con le borse. Un esempio: sono diminuite le importazioni di acciaio dal Brasile, di ferro dall'Australia, non solo, la capacità produttiva di acciaio in Cina è oggi 1 miliardo di tonnellate, che è il doppio del fabbisogno interno attuale. E anche per questo il prezzo del ferro è crollato, lo stesso vale per le altre materie prime, dal rame al petrolio. E che succede? Il crollo dei prezzi delle materie prime esportate soprattutto da paesi emergenti, Brasile, molti paesi africani, la Russia, ha già provocato pericolosi contraccolpi in termini di crescita. Non è chiaro fino a che punto la situazione peggiorerà sul piano macroeconomico, e di sicuro l'America da sola con una crescita del 3,7% non può essere l'unico locomotore. E quindi nel medio termine in effetti c'è il pericolo di un risucchio per Washington, anche per questioni cicliche, perché la ripresa dura ormai da molti anni. L'altra morsa è finanziaria, perché l'Istituto per la Finanza Internazionale della Banca Mondiale ha comunicato da Washington che il debito societario degli emergenti è raddoppiato dal 2008 ad oggi, da quasi 3,3 miliardi di dollari a 6,8 miliardi di dollari. E quel che interessa è che il 40% del totale di questo debito è in dollari, e prima era appena il 15%. Se aumentano i tassi, la reazione sui mercati sul dollaro sarà quella di spingere la valuta americana al rialzo, e dunque ecco che questi paesi emergenti si troverebbero con una diminuzione delle esportazioni, una caduta della loro economia e in più un servizio del debito in dollari molto più elevato di quel che prevedevano. Per questo la Fed tentenna, ma torno a dire, non si può tentennare più di tanto, perché se non è un problema oggi sarà un altro problema domani, quindi tanto vale passare all'azione, aumentare questi tassi di interesse, e poi, secondo me le cose si stabilizzeranno e le cose non andranno così male come temono i pessimisti. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! Intesa San Paolo, official global banking partner di Expo Milano 2015. Vi ha presentato America 24.